Ragazzo ormai ventenne che ti senti una donna se guardi gente come te. La sera tutti in fila in discoteca con due tacchi da modella per guardare cosa c'è. Di fronte trovi un uomo già ventenne che ti guardi in mezzo agli occhi, occhio un po' più giù. Ma i tuoi occhi sono per uomo quarantenne per il quale stai mostrando tutto il tuo lato A. Solamente un mese fa, abbronzato ben vestito, non ti perdi l'occasione per mostrare tutto quello che hai. Per raggiungere il tuo scopo a notte fonda in discoteca, offri un drink a una ragazza al bar. Lei ti guarda e chiede l'ora, scopri il pulsore del Rolex e vi siete già svestiti a metà. Sogno e la porta sta bussando realtà. Apri gli occhi e la finestra fa filtrare nuova luce, illuminando dove luce non fu. Si dividono le strade, lei che deve ritornare a studiare nella sua facoltà. Lui si fionda a lavorare anche se è tardi per timbrare il cartellino che la sera non fu.